Sembra non si sia via di uscita, prigioniero, sogno ormai realtà, guardo indietro, mi sono infranti, le speranze poi non le trovi più. Ne volti nessuno, nello specchio solo la realtà, mille volti nessuno, con gli anni che il tuo sguardo cambierà. I suoi occhi, grande amore, e le corse di chi non ne può più. La rabbia di chi vuole soldi, che ti insegue un viaggio di felicità. Mille volti e nessuno, nello specchio solo la realtà, mille volti e nessuno, con gli anni guardo cambierà.